sento Graziano, Graziano, per scontro del contadino, proprio... Pacchigio! Signor Sole, buonasera, il contadino! Buonasera anche a te, caspita! Contadino stai facendo stasera? Ritornando verso casa il contadino qua. Oh, stasera presto allora. Dai, vai, c'è una bombardia, un po' di gola, non hai un'idea. Quella è la scusa, chissà. A quell'età sì, è così che si fa. Mi spieghi se è cosa male. Allora, arrivo a casa, mi fermo sia a prendere qualche cosa. Dove sei? In macchina, sì, in strada? In macchina sono. Ha già compreso. Dai. Graziano, non ci sei più stasera. Tu? Non l'ha inteso, boh. Graziano, non so se sei. Io l'ho inteso. Sarà quadro. Dice sotto l'orecchio, un burigato, come i cubetti, come c'è la radio. Sicuramente. E Marina sotto l'aipo, quindi non si offrecco. Ma ci metti io ancora, ma è ovvio. Giulia, sopra l'albero, che andiamo via, andiamo. Allora, si abbacchi. Ho preso la strada asfaltata adesso. Ah, fuori ieri. Capito, non fai solo colloquia. Andemmo. Dai. E beh, zingari! Mette su dai, lo zingaro! Non è chiesto! Lo zingaro si è acciarato! Zingaro! In campagna! Ciao Tore, ciao Bacchizio! Ciao Grazia! Scendo tutta scarica però, Tutto scarico, invece Tore sta uscendo pulito. Cosa ha detto? Sono scariche! A chi ha rimaniato fagioli? Non ho capito, cosa ha detto Tore? Sta uscendo a scariche, a chi ha detto che ha mangiato fagioli? Aspetta, ce l'ho detto Antonino, adesso mi fermo 5 minuti Antonino, poi riparto. Graziano! Eia, ciao Do, tanti saluti da Babbo Doio! Non lo sappia che era vicino a mezz'ora, la giusto a rimane, ci ho andato, no, avanti ieri era festa, così, o avanti ieri era festa, tata, bubu! Ieri mattina l'ho visto, non me ne ero mai avvisato, e invece ieri ho guardato e oggi ho visto già il Babbo Doio. E oggi a mezz'ora, solo mezz'ora è nata, il Babbo Doio è in basso, cioè sono di fronte. Sono da parecchio che non ci vado io e bisogna che vada qualche sabato o qualche domenica. No, io già ci vado spesso, da anche due volte in un mese ci vado. O di domenica, o di sabato. Ah, mezz'oretta, ando, mi faccio un giretto e dopo me ne torno. Qualche volta che faccio il giro più grande ci sta anche un'oretta. Però mi faccio un giro, là, a guardare chi c'è e chi non c'è. Ce li ho separati io ho mio padre lì nell'oculo e mia madre in tomba. Pure mio suocero era così, però quando mi hanno mandato la lettera che bisognava rinnovare le cose, allora l'ho fatto esumare da lì e l'ho fatto, siccome non era tutto fatto, allora l'hanno cremato, quello che c'era rimasto dopo 40 anni, l'hanno cremato e ho preso il vasetto, l'hanno messo lì le ceneri e l'ho messo nell'oculo insieme alla moglie ed è risultato di fronte all'oculo di babbo tuo, però è di fronte ed è in alto mia suocera, con mio suocero. Sì, ma io non lo posso fare perché ce l'ho nel coso, in tomba dai mia nonna, i miei zii. Ma chi, tua madre? Mia madre, sì. Io ce l'ho in tomba insieme a mia nonna e i miei zii. E di chi è la tomba? Di tuoi zii? Allora, la giovata va a 4 e a voi ce ne sono pigliati i rugurati, buro. Vabbè, sempre meglio hanno andato. Chi sta giù è meglio, se ne ha tutti. A chi sa di mamma? Era per 5 ed è piena. Anche se magari mia sorellina è piccolina, non pesa nulla. Mamma c'è un sacco di anni, babbo non è da molto. C'è mio fratello, c'è mia nonna che non è venuta a Roma stessi, anche da un bel anni. Però sempre così, sempre tutti lì sono. Sì, pazienza. Il giorno che deciderò, mi domanda nero lo gozo di lasciarlo lì, io meglio ne voto, se non vi so di là, ma prima lo faccio cremare. Io gli ho detto, mi hanno detto loro, noi adesso lo esumiamo, perché mi avevano mandato la lettera, e mi hanno detto, o riconferma il loculo oppure lo leviamo da lì e noi lo mettiamo nell'ossaia. O se no lì cosa vuol fare? Se al limite non è consumato tutto, lo deve cremare e poi, non so, lo mette nell'uculo insieme alla moglie oppure se lo portate via. E la giubbata va bene, se non è consumato lo cremo e poi lo metterò insieme alla moglie. E così ho fatto. E ho speso attorno alle 1000 euro, tra esumarlo, cremarlo, andare a trucchetta a pigliare il subarattolo, un vaso in ceramica, in granito, è grosso, bizzante come una balla. No, se così, allora se così vaso nella cosa rodasso, nell'uncolo di... Sono 1500 euro l'uculo. Lo so, ma di che maniera invece mi è venuto di meno dell'uculo, di lasciarlo nell'uculo. Mi è venuto di meno. Poi, perché non era consumato, è logico, l'hanno dovuto cremare. Però se è consumato, lo mettono direttamente nell'urna, quello che c'è rimasto quando lo aprono. Che pezzo, si può usare lo scheletro sul buono, che pezzo, poi l'altro sul buono nello sale, e a te ti danno l'urna e puoi mettere l'urna insieme a tua madre là nella tomba, base in un buco, se entra nel barattolo e torna a Sarra. E al muratore gli avevo dato 50 euro perché lo conosco e gli studi che lo conoscerai anche tu. Se vuoi dire che riconosco tutti, riconosco che si vede in TV. Dunque già lo conosci, adesso non mi viene il nome, quello bassottino. E abita qua vicino, abita. E mi aveva preso 50 euro a me, se no prendeva 120. Ma la sorta di pagare un camposanto, 500 euro, tondi tondi, per esumarlo. E per cremarlo, poi trucchetti mi ha pigliato 250 euro quell'urna, va bene, ha di tutti i tipi, io ho preso quella, l'urna era la più bella, è un vasetto col tappo in granito rotondo, l'ha ributtato la vicina ed è sigillato. Ma cosa fa, lo porta a casa o lo mette? No, lo mette insieme alla moglie. Ho chiesto a cosa mi ha preso 50 euro, 800 euro da ho speso. Sì, andava, certo. No, che neanche dare, sempre di là vivoni. Pur quando c'è molto vivoni di là, nonostante sono passati 40 anni, allora sempre di là, a te piace. Ma mia madre già non era gavani a chi ti è fissa da sempre e non la toccano. No, mio padre, dopo 30 anni ti chiedono i soldi. Lo so, ma noi non si ne erano avvisati se arrivi dalla lettera da 40 anni. Infatti, A Bucanino non vorrei bucare subito, se non andavi a parlarti. Ne lo levavano anche se non ci andava nessuno, se lo chiudiano lo saglia, hai compreso? Sì, mi sei so schifo, chiatto. Andare così no, non mi piace a me. Tu Marechiana ti avevi lampato l'idea, ti avevi fatto in cucina. Eh beh, infatti ha detto, cazzo a te pare se buoni, a mia moglie l'ha detto, ma perché io lo saglia, che è un mortinaggio, l'ha fatto vedere pure al televisore, non l'hai visto. In mezzo a chi so, ce l'ha detto che l'ha fatto vedere a Videolina, Luca Posante lo saglia, vera la Mondezza, burro, elba, tutti infusi, buchi di Mondezza, vera un gettito, altro che lo saglia, chi c'era un mortinaggio. Chi vuole essere arrestato, chi si chi vi so, comandanti e l'operaio che vi so in TV. Ecco cosa è. Era uscito a Videolina l'anno scorso, mi sembra. Gli hanno fatto vedere una bestia, un tappo, di lamiera, mezza bestia, tutti cazzinando, era aperto, era, l'ha alzato con le mani e ha ripreso, la Mondezza lì in fila. I parallussi, crani, civiliani, buchi di Mondezza, un mutinaggio. Sì, ero gioco, grazie. Aspetta a vedere, vera Bacchisio, si è arrivato. Attenzione Bacchisio. No, non deve darsi, arrivato e andare a casa allora. Aspetta un attimo, che è venuta Paoletta, che è andata alla camera mortuaria, è morto Giulio Caggiari, saputola. Giulio Caggiari, ma che sono stati anche i vicino? Nelle palazzine comunali, dietro di te, dietro qua, là, dove vicino a un certo da Bacchino, dentro lì, all'interno di quelle case. Ah, ho compreso, abitava là Teolce tanti anni fa, il fratello di Vittorio Caggiari, di Giovannino Caggiari, che è molto lumeggi baffato Giovannino. Certo, tutti se ne sono dentro questa famiglia. Era morto Antonello, Pietro, quello che era malato, Pietro Caggiari, te lo ricordi? Chi sta già sempre rubiale, era malato, era mongoloide. Poi è morto Giovannino, è morto il mese scorso, così. E il mese scorso è morto. Due mesi fa. Di più, cosa di più? Un 2 mesi fa è morto. E vai morto, lo bradetto più umano. Sì, vuol dire, avvatatene più bestatene, riposane, è tutto. Quanto? Ne ha avuto due interventi, due operazioni, questo Giulio Caggiari. In 48 ore. In 48 ore. Praticamente una oggi e una all'indomani. Ma non potevi no. Ma era molto male, va via a brullare il sangue. Il sumare deve essere. Da poi va via il sumare, molto male. E va. Va. Sì, grazie, passa così, è meglio che se ne sia andato. Ah, ma qua va a fare più bene. Stava male. La moglie si lamentava sempre, non me la basia più. A Purillo, a Tinillo, era questo un bel mare. Sì, ma come, state più bene, state più. Vabbè, che cosa è, funerale domani? Era di 3 mesi, dando Campino. Dando Campino, via c'è a te, Ivi, alle 3:30, domani. E a quell'ora non ci sono, non ci posso andare. Non ci posso andare, che sono grabati dai miei nipoti domani. Non lo so a che ora ne torno a casa. Domani io non può andare alla messa. Domani a mattina devo andare a GAP, un arrompimento di balli, per fare il 7:30. Ho telefonato lui che mi ha detto andare domani. No, io ce l'ho il 16, alle 9 del mattino. Il 16 ce l'ho. Mi ha detto pure andare prima perché c'è un sacco di gente. L'ha detto, vabbè, verso le 8 e un quarto già sono lì, apre alle 9. Perché c'è un sacco di gente anche per via di quella domanda a Barizzi di Na, un casino. Io già faccio un appuntamento. Ma mi ha dato l'appuntamento, mi ha dato. Alle 9 sono lì. Una mezz'ora è tutto fatto. E tu dove vai? Sì, io salgo su a Monserrato, ce l'ho alla CGL. Ah no, prima tanto tempo fa c'era anche io lì, però poi che ha aperto qua, in via Magellano vado sempre qua, in via qua alla Terra Cervicchio, dove c'è la ferramenta a fianco. Sì, vi gioco un sacco d'anni in Chivi, vi gioco, quindi a trasportarne tutto e cose che devo dare, se vado in un altro posto devo dare, torna tutti i documenti devo dare, invece vanno in tutto e devo tutto in Chivi, una mezz'oretta, già ando, già faccio del gozo e faccio cosa risa. Che cosa? Io c'avevo quello di via Rockefeller sopra tutti, dietro passenti prima. Poi ha avuto quello di via 4 novembre, mi pare. Poi ha avuto uno in via Nunzio Cirri, che è a San Raduis. Poi sono stato con quello di via Pascoli, da via Pascoli a Nabettinocchi, chi che me ne sono comparato da chi. Io ho i documenti, basta che ha detto, l'U730 invece ti fa subito tutto. No, così no, vado provato, andavo a su luogo e mi erano incasinando tutto. Ah, sono tornato lì, sono tornato. Non ho voglia di stare a ripetere tutto. Andò in Chivi e boh. Boh, no, a me già non mi hanno mai incasinato. Solo che ha giusto, che ci deve alzare a Pascoli che andavi laggiù in oca sui bassi, ando in oche. Anche alle punti sono stato. Però alle punti era, mi toccava andare di voce e se era pedi mi veniva male andava allora ha detto vai avanti da lì se me ne tocco dopo, no che sono qua sempre. Sì, vabbè grazie. Io vado lì, già sono in macchina, 5 minuti sono in Chivi. Vabbè anch'io prima vado via la macchina e poi andavo dritta a sinistra. Ma adesso anche se ce l'ho, ma devo dire la mia figliola, magari è impignata e mi rompe le palle, dunque tatuare, ando a piedi e non vedo il basso, ando, va. Davvero così. Ah, se deve essere rientrato Bacchisio. Attenzione Bacchisio, non deve essere rientrato ancora. E poi non è arrivata ancora. Bubu. Allora c'è cuta una collega di mia figliola, cioè c'è cuta chi c'ha una collega di mia figliola? Una lancia, due lancia era. Prendi la curva, la rotatoia, gli è giunto un'infarta, vita. E molta è lì, sei uscita con la macchina, è nata la collega di mia figliola. L'ha truccato un bacino e l'osso della coscia della gamba sinistra. Della gamba destra, truncato in due l'osso, mi ha fatto vedere le fotografie. C'ha l'osso spezzato in due, vado ma la manzano la offereggia. Certo, è andata via, è andata. E là sei muscia invece. E quando si è cuta la macchina della collega di mia figliola, era già morta, gli è venuto un infarto, ha messo le braccia e si è uscita con la macchina. Alla sera venne la curva, è nata la macchina della collega di mia figliola. Frontale, tutti e due si sono baciati. Sì, bisogna stare attenti, bisogna stare... Certo, bubu. Sì, le giunto in parte, è morta facendo la curva. Si è accasciata, è nata... Lo stesso, non si è visto chi da che la macchina, chi ne è giunta in alto. Si sono visti tutti e due le imberghe. Chi da che sono andate alla niente la Yamusa e l'altra era tutta imburicata in mezzo all'amberga con l'acqua tutta truncata lo bacino. A chi sei uscita dal golfo? Pronto, sei uscita è nata a Roma Nubia e sotto a Roma Nubia no? E l'ha troncato l'acqua, figuratevi velocità. Magari aveva schicciato, invece schicciato freno ha schicciato l'acceleratore. Magari come te è morta va via i camminini e le è rimasto rubito innanzi all'acceleratore e come ti si è accasciata ha chicciato di più rubedale e boh, vai sa, ha sabito avrà tirato l'anche e beh, è basso la corsia e si è uscita innanzi alla guida e beh, se la macchina era andata in rasura. Se la paga, paga. L'assicurazione di quella macchina sua paga, perché se c'è uscita tutta dall'altra corsia, innanzi alla macchina di Ghizza, mica è entrata per andare a Città Mercato. Come ha fatto il furgone, la macchina ha camminato all'entrata di lì, da dove ci sono le inferriate, che c'è quel meccanico lì. Lì, tra la salitina e l'inferriata del muro del meccanico. Si lava già da brutto. Aspetta, che andava e anda. Bubu. Sì, poveraccia, ma non è a colpa. Quella è morta e la macchina si è uscita con tu giù, hai compreso? Un momento, ma così la zitti. A me quando mi è giunto, a Giuseppe Sante sono qui a Santo Chivì, un ibe, l'incrocio dell'Africa, mi ha chiesto venendo da Predaneta, venendo a casa, e ci sono qui ci di Laguna e sta qui, mi ha fatto da vedere. Aspetta, bubù, bisogna stare attenti, bisogna stare oggigiorno, non ci vede a bici. A me mi è giunto tre volte, me l'ho scappata tutti e tre volte. Pensa un poco. Ah, si è rientrato in Bacchisio. Attenzione Bacchisio! Che vuol dire che ancora non è rientrato a casa? Vuol dire che non è arrivata ancora. Aspetta che mi assento due minuti, Tore. Sì, sono Ginoghi. Tore, a ci sei. Sì. Cosa c'è, Grazia? No, che mi stavo facendo dare i fogli dal culto di mia figlia, perché domani lo devo portare al capo, anche quello di mia figlia, perché è in casa, no? Sì, anda che... No, giornaggio poco voglio di mia figliola, io. Pensa un poco. Meno mai mi durrà un bel di dinamite, mi viene durrà. Oh, non sembra di durrarmi. A me mi diranno i bigliati, mia moglie era travagliando un paio di mesi da una parente Giulia. L'aveva fatto questa assicurazione di 13 e l'ha pure fottita. A chi? Cosa c'è di 8 mesi? Quasi un anno, neanche. Quasi un anno, neanche un anno c'è. Mi diranno, ma tu guadagna tutto. 800 euro, mi pare, aveva guadagnato chissà anno. La giudice di Durrà 1.600 all'Impisi. A chi sta del comune mi aveva detto che non c'era bisogno di scaricarmelo nel 7.30. Io non l'ho già fatto e mi ha fatto l'Equitalia a pagare, lo doppio ha già pagato. Pitturai. Non è così. E bisogna che così, che deve... Chi anda, ad esempio? A me non me ne hanno imbigliati, non mi attessi. L'anno appresso me ne hanno indurrati. Invece a me non me ne hanno indurrati. Però la colpa è di quella del comune, della circoscrizione, di Nove, di Latioci. La giudizio, ma ascolti, ma questi includono nel 7.30 che faccio ogni anno. Non c'è bisogno, sono due cicchi. Allora non le devo portare al capo quando faccio il 7.30, oh, non c'è bisogno. E ma qui ha già fatto così, a chi non ma così tu ne raggio. E mica da voi, ma un anno si è passato, un paio di mesi mi è arrivata la lettera. Chi tu vi ha dato, chi si dirà, dall'Equitalia, questo è l'Impisi li vuole indietro. Se l'hai dato 800 euro a chi li devo durarmi lì, sì? Cosa vuole che le dica? Pagate un miraggio! Grazie, così è! È così! Io invece ho tante cose di mia figlia che mi deve venire a un montone di mamme. Speriamo che non me ne domandi, Ani! Ma se è l'Impisi non te ne dorra, non ti preoccupa! Oh! A me mi hanno fatto pagare un verbale di 20 anni fa, da 100.000 lire che era, non è che te l'hanno pagato, 800. Figuriamo un poco. No, io già non ce l'ho quei problemi. Me ne ha giocata dalla 7.30 io a mia figliola, quindi me li sto scaricando le cose di mia figlia. Quella multa me l'avevano messa a Calagonone, me lo ricordo ancora. E non era neanche 100.000 lire quella multa lì. E non mi è mai seccato, mica da poi 20 anni mi è arrivata la lettera a casa, sono andato a vedere cos'è, non mi ammettavo nemmeno cosa era. Era quella multa di Calagolone, e da 100.000 euro che si è alzata 800 euro, a bella da finire, eh? Grazie, guarda che dopo 5 anni quella multa lì non vale più, mi. Che non ne dovevi pagare, dice, da andare a... Al coso andavi ai vigili urbani e non ne pagavi. Guarda che gliel'ho detto mia all'Equitalia, ma mi scusi, ma dopo 5-10 anni non decadono queste multe. No, non decade proprio niente, quella la deve pagare lì. Così mi ha detto. Se poi non la paga sono fatti suoi. Ci sarà il self-ignoramento. Ah, infatti, non l'aveva pagata ancora, ma vieni. E poi tu riganasci la macchina, se tale giorno non pagavo mi bloccava la macchina nei vigili urbani, venivano e mi rabbigliavano. E non solo, ho pagato 800 euro all'Equitalia, poi sono salito al vigili urbani a levarne i riganasci e ho pagato un'altra multa lì, hai compreso? Oh, massa di delinquenti, giocato. Che poi 5 anni quella cosa lì decade, no? Non doveva andare avanti, decade quella cosa lì dopo 5 anni. Io già sapevo che era così, ma è di maniche non era così. Fatta gita e capace si andò da un avvocato, me ne mangi a burri di là. L'avvocato è canto cavolo mi viene a cuscare questa cosa. Dice, ma va a fanculo, va a andare in bus, mi devo di là. Ah, se vi da bavo. Ormai come ne ha giocato da mesare e balle. Mica ci sono salito 4-5 volte io all'Equitalia, più dalle vigili urbane, più ho controllato se era multa mia, capito, un casino qua. Io ce n'avevo una lo stesso, più di 25 anni, e volevano pagargliela, l'ho contestata io questa cosa qua, che dopo 5 anni loro mi avevano detto che decadeva. Ma doveva essere tolta fuori questa cosa qua, invece l'hanno lasciata anche che andasse avanti. Sono andato io su in tribunale, l'hanno portato in tribunale, sono andato in tribunale la gioventù io, già ne ho pagato tutto e già ne ho pagato, perché la cosa era in 5 anni doveva decadere questa cosa qua, ne ho preso. E ti sono andato sempre a Dananzi. Ah, sono andato in tribunale e se l'hanno imbagato tutto e se l'hanno imbagato. Ma a me mi ha detto, se la deve pagare, fatti su e se non la paga, ragazzi, ma poi che pipa e allora me la giù bagata. E a me mi rompeva le balle se mi bloccava il burro la macchina. Chi si macchina come ti so era niente, ma mi aveva rimbicciato la macchina. Hai capito? Ma hai butto la pipa. Già lo so, perlomeno io sappia che la cucci ma paese ha detto che non veniva di decadenza. No, a me io l'ho portata su dall'avvocato che c'avevo io. Ma ha detto, aspetta un attimino, ha chiamato un giudice, ha chiamato, dice vieni qua domani mattina che arrangiamo i conti con loro e li chiamiamo subito. Entra una ghetta, ha fatto un gozo. E ve l'ha fatta bagare, tutta canto ve l'ha fatta bagare, che chissà cosa doveva decadere, dopo 5 anni doveva decadere, è compreso. E vogliono essere pagati, Edi. Ma ve l'ha da vedere un giudice, a voi di Zincanni, cosa era? I medicini, lui a te me l'ha giocato, a pigliarsi di medicini che si di là. Chi si di là, secondo me, sono impiegati di chi si danno in partuti tra di Edi. Non vengono e non vengono nulla dall'Equitalia, solo impiegati di chi, non hai compreso? Avanti, prima o poi un macco, la cattemmo che paga, non hai compreso? E la bebona è tutto sotto a tappeto, tra di ed, e si rimane niente che si di là. Sì, grazie. Io, faccio il coso che i vigili urbani mi sono rimasti mari, in ufficio, nel comune del coso, è più vicino a Cagliari, erami. Di suo comune Dice, vi sono rimasti male, vi sono rimasti. Da, già che lui giudice non li poteva vedere, che si abbassi. Una massa di ladri, già. Che... Poi non c'avevo tempo allora, perché stavo lavorando, banda e turra. Se no gli ammiravi a Colcivea, si ero stato io a Libano in pensione. Mi ravi a Colcivea, Eddi. E adesso non posso fare più niente, oramai la più bagazza. Grazie. Purtroppo che sa niente, niente di delinquenti. Andate, se ti piace per il bacchisio, penso a giorni al bacchisio. Boh, lui se si è arrivato già a casa già, se no do a qualcuno. Si sarà a prendere la doccia. Ah boh. Luca non si è sentito per niente, ma ne cuglio. È stato in tournée. Sa, l'avrà imbuffato qui c'è cazzo poi sta mangiata le mani. Andiamo via, andiamo. Bebe. Sarà tutto gonfio, sarà. E te, che te. Ma comari che non vede. Ci senti? Ma io lo dico apposta, così si è accusato, entra subito. Sì, ma mi pare che sia in tournée, mi pare che sia. È vero. Isciante! E beh, è vero! Guardate tra il film! È vero! Eia, è vero! E me, Graziano! Sono Donnai! Ciao Leoci! E dove sei? A Santo Brito! No! Al cimitero sono! Io non è chiusa quest'ora! Ehi, una passeggiata al cimitero so. No, io sono andato l'altro giorno, ieri che era festa, ieri festa era, eh. Ma vai, serrato il camposanto, non è dire Leonci, buonasera. Sarà vicino, vicino ai Rospi. Ehi, tutta lì è la strada, me, tutta lì dobbiamo arrivare. E vabbè, ma non 300 però. meglio pure che dentro. Leonci. Oi. Tore, tu brincare un cancello, diglielo le oggi. È vero. Capito miai. Sì, catta, bubu. Attenzione, bacchisio. Dito, sto della Semmarino, mi, sotto terra. Aspetta un attimo, rientro subito, che vado in ufficio. Sì, fa così, fa. Attenzione Marino, poi 600, terra si proprio, Oh signor Bacchisio! Era ora di salire la campagna! Ma mi pare che ancora non è entrato! Sì che l'ho sentito, Bacchi! Andrei inteso! Oh, e mi è sembrato sentirlo, boh, allora era Leoncino, Leoncino ci sì! Leoncino non c'è più! Sì, andiamo via, grazie! E fenni di fiore, e fenni Leoncino. E beh, vediamo se c'è Luca, attore. Luca, ci sei? Manicomio. Sei andato a visitare qualche parente? Boh. Oggi non l'ho sentito, cioè, per messaggio già l'ho sentito stamattina presto. Boh. Sì, vabbè. Se vuole entrare già se mi no, che grazia. Beh, la Diana abita, non va come, si vuole accomodarsi. Ma io vado tutto sarrato. No, in veranda c'è la zanzariera tirata e la finestra aperta. Quando in cucina c'ho la porta a finestra aperta. Si cazzi bene oggi, da. Sì, oggi sì. Domani, è sabato. Sabato ci devo fare a Palmadola, ci devo fare a fare un coso, no, a Santa Maria la Palma, anche devi aiutare a me ne butti. Domani sono qui io a San Giovanni. Che è vicino a Santa Maria la Palma, è tutto rettilineo, ma arrivi subito. Sì, vabbè, grazie. Purtroppo non so che ora inizia e non so che ora vini. Allora fino alle 7 di sera. Oh, non so nulla, grazie a che ora, né a che ora inizia né a che ora finisce. Vabbè, sei a partenza. Sì, a partenza. Da qua mi sa che devo partire alle 4:30, a 5. Ehi, ti arrivi che cosa vi presa, se no davvero mi arrivi da Santa Maria la Palma. A Puglia. Penso che non è manco indietro un campo, penso un poco. Il campo è quando arriva all'incrocio, giri a destra, mi sembra che era lì. Vai dritto, arrivi alla piazza e poi vai dietro la chiesa. Mi sembra che dietro la chiesa. Oh, grazie, non so nulla. Io so solo che vicino c'è il coso del vino. Quindi, io so cosa ho visto. Il coso del vino è all'incrocio quasi. È all'entrata dell'incrocio, come gira a destra. Si andava a caricare il vino io lì. E la ragosta, e poi andavo a fare le consegne in tutta la Sardegna, agli agriturismo, ristoranti, bar, tutta quella roba lì, pizzerie, e un sacco di locali facevo consegne, un bel bar, il vino alla ragosta. Sì, vabbè, vuol dire che guardiamo. Boh, andate. Cammina giù in un poco, è poco è buono, è poco è caro, anche da poco l'ho bevuto. Ci ho mandato la fotografia a Gian Maria. Andemmo bene, andemmo. E gli ho mandato la bottiglia con l'etichetta, c'è la ragosta disegnata, no? Nell'etichetta. Ed è buono, mi è costa pure un bel. Non lo so così, mi costa un bel. E vabbè. Ma lei anche me l'ha diviso quando travagliavo, fa conto di chi sa fare le viaggi. A chi cacca cartone più vicino sempre i rugarrigo, se no già me le procuravo io. Ma Moraredo! Allora non lo so, ma me l'ha diviso un bel aiuto che subito. Era buonissimo. E infatti. Bisogna fare così, bisogna fare. Allora già si procurava la roba. Da quando hanno invitato per i conflitti, roba non è bucavi assai, poco e nuda. Ma quando non c'erano i computer, a voglia che ne procuravi di roba. Prima sì, aveva invece un buco più nuda. Oh, aveva tutto segnato, controsegnato, computer. Prima era più semplice la cosa. E li bucavi un bel di merce. Sì, boh, andave. Attenzione, signor Bacchisio! Bacchisio, ma la papa c'è in buccelli. Boh, chissà, vabbè, non va a entrare. Sarà in buccelli, o papa o pisello, uno di lui. Secondo me è papa. Ah, boh, non lo so, no. La sera pigliate per i moglieri, un poco di vino, di bicello fresco, ma non mi tennano dennaro. E mi ha detto, fermo una mesa con un bicello. La cottuccia come migliora se l'ha mangiato giusto quanto, grusso così. Tennaro dennaro, dice che è dolce, se l'ha mangiato tutto. Mettura, certo, tu non vuoi. Oh, a me moglieri devi fare la ministra, fa la ministra, va. Vabbè, grazie, sarà così. Ma si vuole la posta, ce l'ho anche in barattolo. In barattoli già è buono, ma se ce l'ho quello là era fresco, capito? Ma è già a cucinarlo no, non gli varia manco la pena, chi era tennaro tennaro. E dunque noi va. Vabbè, anche con le barattole già lo mangio lo stesso, già è buono. Io lo mangio fresco, lo mangio in busta, e tanto, è già sempre buono. Ehi, lo compro anche io quello sul gelato, in buste, o se no lo prendo anche in barattoli. Lo forse la minestra, minestra e patate per dire, quando è quasi cucinato ce lo metto, perché quei barattoli sono già precotti, capito? E infatti. E a chi se li pongo quando pongo il battato si chiude, non ha gatti bipedi. anche quei barattoli di fagioli burru, quelli sono precotti. Infatti li metto, guarda, quasi quando è cucinata la minestra, se no si sciolgono e non agatti. Infatti, dammi così. Ma già sono buoni, io già li prendo anche i ceci, i piselli, le lenticchie. Ce li ho anche in busta, così le lenticchie di sazzecca, però di cottura. Non c'è bisogno di bunirli a muso, solo i fagioli c'ho. O che li vi mettere a bagno la sera prima. Poi c'ho nel pozzetto, c'ho anche i fagioli pappa, freschi. Li ho sbucciati, quando li ho presi li ho messi nelle buste. No, io prendo quella in busta quando non c'è di quello. No, ma al periodo c'erano i fagioli pappa freschi, no? Era passato un furgone in occhi e l'avevo pigliato la cascetta. Li ho tutti sgranati e li ho messi nelle buste. E me li ho messi nel pozzetto. Quando li voglio fresco, lo fagiolo, li piglio dal pozzetto. Adesso che è di nuovo il periodo, appena li vedo li copro, li sgrano e me li metto nel pozzetto e prima mi mangio un chicchi che faccio. Sì, vabbè, andate così. No, io quando non trovo quello fresco mi prendo quello in busta, mi prendo. Anche io già li prendo qui. Però questi freschi io me li tengo. Quando non è il periodo che non agate, che non viene, allora mi mangio visci, compreso, mi porto pasta e fagioli, patate, carote e ci metto quei fagioli là. E c'è una bella minestra, c'è buona buona. E infatti, bisogna fare così, bisogna fare, che se no, io non posso sempre così. Oppure anche le zucchine, le compro un bel po', le taglio, le svuoto, passo tutto quello contenuto che le svuoto, col macinato mi faccio le zucchine ripiene. Poi quando sono freddi, una parte me le mangio, una parte le metto nel contenitore e me le metto nel pozzetto. Cado una giugana, un pozzetto, ne cavo i trecce, me ne vado così, due per uno. Le lascio scongelare, le metto nel forno e sembrano appena fatte. E vabbè, andiamo e andiamo. Attenzione, signor Bacchisio! Bacchisio ci sei! Caduto sì! E allora era Marino, anche per lo dice a Custallo. Marino va che fa, ma dici in campagna, dai! Non so cosa ti via pulisce o fa, Luca evidentemente non c'è, Maricugno. Vuol dire, e Fennica che cosa? Andate, se Fennica cosa vuol dire, lasciamo ruva. Gio Maria sarà parata in campagna, se no impara Luca Prispero. Sicuramente sì, e la mamma che tu la dici che nazzavano sempre, ma le gente sono sempre in onghi. Magari hanno aggiunto chi fa di più e si sono trattenenti. Per carità. E le giornate stanno correndo. Infatti. Lascia ricurri. Già arriviamo a fine mese, vedrai come ti passa il suo mese. Il mese passato gli era un po' lunghissimo, il suo mese di cazzo è, non mi ha detto di 30, che è lungo pure. Chi dura di 30 aprile, chi c'è di 31, non ce la vuoi di più. Vabbè, se sei impegnato gli altri vorranno. Non pare che allora se non sei impegnato, allora... Figura da me, a Nene Turrini, tutto romanzano. All'una e mezza devi andare a pigliare mini botti, da cura, a regalare i nonchi, da poi accompagnare Ciro a ridere, torna a cura, quindi sempre a Nene Turrini. Di così ti si basta nel primario, ma si volano, io quando ero travagliente. A quelli miliari mesi, infatti quando mi è spiata al maestro principale, grazie a me a quanti anni ci siete? E io 18 anni e mezzo, ma vai cosa 18 anni e mezzo, e va la ragioniere ci faccia dire la data quando sono entrato, va, se non ci credo. Lo era convinto. Andiamo a trovare, vero? Con passione da una ditta all'altra, avevo 26 anni per quel mestiere lì, pensavo un poco. Ma io da lì faceva di tutti, prendiamo lì a negozio, andava a piazza a portoncini, trafficavamo un malename, mobiliere, un po' di spazio apri, poca di punti, poco falegname lì, un mese, badia, cucinando, a piazza mobili e tutte cose, a piazza portoncini brigati, e basta, mi rimise anche. E tu si chiedeva più poco, tra l'altro, ma che la ragioniere, vada, che già come li sto dicendo io. Mare è rimasto. Infatti, mi rimane mare per rimane, quando è coso. A me mi ha fatto le coca, non me ne sono andato. Mi voglia addorra, se voglia rimanere a gente e vada. E mi piglio la pensione con un matessi stipendio. Va tu bene, parlo di vai vai, va tu bene, anche se ci rimetti 50 euro quando ti nascono ma sono ti comanda l'isciuto. Ma sono questo stipendiato dall'Inps, sono questo stipendiato non posso fare che ero prima di un mese e trami la pensione e boh. Infatti ed è così. Infatti non ho aggiunto di essere rompito le catene, già mi basta che sono giù fatto. Sì, ma va, c'è il negozio, non mi piace, allora, guarda che io il negozio vengo, me ne vado, me ne posso sboccare, io la vedo, va giù nella prendiamo io, gli ho detto, sì, io me ne posso sboccare. Hai fatto bene, grazie, hai fatto bene, e tanto cosa vi rimane a fare? Ah, tu pigli la matessa e cosa, che se pigliava anche mi pigli in oga, va. A parte quello, poi a me, la così, il negozio, non mi è mai piaciuto. Poi, quando mi vado a rimanere due, tre di negozio, a settimana di scappare, a pulire la merce di scappare, a attaccare l'etichetta. Notte si passava la vita, avevi la vita sempre lo cinnato, o esso, o ramurito. Ora i figlioli, o la nuda che vi travaglia le giuste la famiglia. Un rompimento di balle qua. Che ti chiamava a destra, che ti chiamava a sinistra. Ma vi mi ha convenito che ti dia di far rubare perché ti vogliono un figliolo a fare un'altra cosa. È un bello bello. Ti faccio fino che ci vengo da te, ci vengo ora, se non mi innanzi. Oh, gli ho fatto bene a fare, che si doveva fare. Bigliato, fatti anni, 42 anni e 7 mesi, fatta la domanda a fine novembre, a dicembre me ne sono andato in pensione. Ma poi, se tu sei stato migliato, io capo lei se ne deve andare, mica lei è già in pensione, e già ci vediamo ne va dall'altro mese, e ti dirà, a 6-7 mesi così. Mi sai da poi mi ha detto che la finanza dovevi arrivare, infatti gliela fisso, perché i macchinari erano normali, per i travaglieri, con gli anni si arrabbiano, quando si facciano potete più la tonaca. Sì, io ci ho fatto il coso, sono andato al patronato, mi ha fatto il conto, tutto quanto, mi ha detto venga a fine mese che facciamo la domanda. È andata quasi a fine novembre, anzi il 20 novembre, ho fatto la domanda il 16 di dicembre, me ne sono andato in ferie e poi a gennaio ho iniziato il coso, la pensione. E a me quando ero in pensione mi ha, a certe volte mi ha chiamato, oppure che non andava a travagliare, che già mi pagava per me, non è più voglia. Tanto bisogna mettersi stipendio, quindi, io se bisogna mettersi stipendio, se bisogna, quindi, le metterò prima. Andava a travagliare, infatti, e travagliano invece che ci vuole travagliare. E noi gente, mi va però buoni con un gozzo che ci vuole che di là deve venire ben forza entra a prendere il lavoro e non rifiutare. E beh, se i ricchi ti bloccano subito quei soldi lì, quella che dà, non hai subito il lavoro. La prima volta, la seconda volta, lo torni a rifiutare e non te ne dazi ne più. No, io so che la prima volta, se ti chiamano e andare a travagliare, tu ricchi ti blocca subito la casa. E infatti è così. Non che si deve mangiare di nappa e fuzza. Ti danno il lavoro, dove è il lavoro deve andare. Quindi se lo rifiuti, so a fare due. Ti possono dare il lavoro a un raggio di distanza di 100 km. Non più di 100 km. Tu devi andare a lavorare di 100 km. So che c'è gente che gliel'hanno dato questi soldi. E però se ti chiamano devi andare a lavorare, però non deve raggiungere 100 chilometri. Sì, dai Noghi a Olbia, Costa Smeralda, vengo preso, Santa Teresa, Palau. E beh, basta che non raggiungi 100 chilometri, devi andare, se ti mandano, se ti dice devi andare, fazi Arzacena a travagliare, ti devi andare. Infatti, è così, devi andare per forza, se no, arrivederci. Quindi? Però non so quanto convenga a me a uscirci lì, magari si è di chi ti risolve in sicurezza. E gatto si vivo andare a turra, se uno deve andare a turra in benzina. E gatto ha una mano di là se ne all'altra di invitare, allora non andava così. Grazie, io 80 anni fa se sia a travagliare, se sia a Olbia, se sia. Prima ne partevo il lunedì e rientravo il venerdì, rientravo. E guarda che io, quando non c'avevo macchina, alzavo a Santa Maria da Rurati Dossi, mi pigliavo un pulma e andavo via a Bancali, in pulma, allora faceva Lumaniali, a Bancali, a Pozzo San Nicola, alla Lida, dove c'era il lavoro andavo, però andavo in pullman. E vedi, bisogna andare per forza, va, se ti rodate nel travaglio andare senza rifiutarlo, perché così devi essere che fai vedere che lavori, poi stai 2-3 anni e ti pigli le disoccupazioni. E io andavo, anche se mi prendevo il pullman, andavo dove c'avevo il lavoro, poi la sera alle 4:30 mi pigliavo un burma e me ne tornavo. Me ne scendevo a Santa Maria, mi prendevo il treno e me ne parlavo a Ruati Rossi. Ehi, grazie, bisogna fare così, bisogna fare, anche se no, se ad esempio vengono in chivi e travagliano non acciappi mai. E rimane sempre, che ti diano è che ti ridate in basso sempre. Devi andare a travagliare, fai fuzza. Ah, già so cosa è per andare a travagliare, in pullman, a piedi, in tram, in macchina, in moto, e tutti i maneri. Allora, dall'altra volta il primo travaglio che faceva andava a piedi, da Ruati Rossi, a Serra Secca, all'officina di farina, dietro la Fiat, dove ci sono i vigili urbani, dietro lì. E s'assavo da Ruati Rossi a piedi, a Regge di Manzano, in Parababba, che babbo travagliava a via, te ne travagliava ad Arezzo. Grazie, ma ci ho fatto sacrifici io, uia, e poi, tante cose, adesso che arrivi dalla missione, adesso che arrivi tu. La gente invece che non ha mai versato un'onda. No, io ho lavorato, senza assicurazione, però nel frattempo che stavo lavorando senza essere assicurato, mi ho sempre cercato un posto di lavoro dove era assicurato. Come pagavo quello con il travaglio, mullavo qui dove non era assicurato e me ne andavo dove era assicurato. Ho sempre fatto così, però senza lavorare non ci sono mai rimasto. Ho sempre travagliato. Sì, grazie. Io ho sempre lavorato assicurato, non ho mai lavorato senza essere assicurato. No, non me la degoso. Sono sempre lavorato assicurato e tutto. E purtroppo. Vabbè, me ne sono andato in pensione. Dove va essere al 2013 in pensione? Pensa un poco, invece. Mi è toccato farmene altri 2 anni in più. Però nonostante tutto, che ho lavorato anche quegli anni senza assicurare un poco da uno, un poco dall'altro, le marchette me le avevo accumulate lo stesso. O perché mi hanno considerato anche gli anni che ho fatto militare in marina, che ero volontario a 18 anni. E poi mi hanno considerato anche l'anno obbligatorio che mi hanno fatto fare di obbligo nell'esercito. A 22 anni, a giovinto a 23, e anche quell'anno mi hanno incluso nelle marchette. E sono arrivato giusto alla pensione, quella di lavoro. Poi mi hanno dato, a presa quella mi hanno dato l'invalidità. E purtroppo grazie, bisogna travogliare, beh così bisogna, se no non riesce a far nulla, così deve venire vacanze, che deve venire da pigliarsi, che se ne è da voi, mentre se non travaglia andare a travagliare, anche se no è cosa. Allora perché c'è me, ma signor Bacchisio, vedi, pensa signor Bacchisio. Attenta, Bucchisio. Niente, come ti fa per davvero? La voce è per davvero da bruppi, da gozo. Tu cosa? Oggi già ti è fatto offerta, ti abbiamo chiamato e non ci vedi. I cangiofi ti hanno tutto gonfiato. No, grazie, sono andato a recuperarmi dei soldi. No, ciao, arrivederci e grazie. Siccome ho sistemato un computer, no? E dovevo consegnarlo, qualcuno mi doveva dare i soldi. Meno male sono salito, me li ha dati, sennò manco domani me li aveva dati. E allora hai fatto bene, quando è così la cosa andava, è vero, Tore? Sì, vero, Ciao Luca. Catta Luca, no, cos'è? Stai offendendo a dirlo, No, io non mi offendo, io mi offendo per così poco, Non so come tipo, certo se mi offendi come pesano mi offendo sì e mi incazzo, no, vai tranquillo, ciao, grazie, lo chiamo Guffetta, mica si offende, vero che è Guffetta? Oh, già ti naggiurisci un poco quando lo vedi, mi sbazziglia l'ottore, a pezzi da giubbarci. Ma io lo so che quando mi fanno a pezzi io godo. C'era Bacchisio, l'avevamo intrasentito da campagna, mi pare. Boh, ed è ancora sani. Secondo me contenne bisillo. Comunque, Marina mi ha riferito tutto, c'era la radio accesa, stavo ascoltando. E cosa ti ha riferito, quello che ha sentito? Che mi riprende a pezzi. Ah, sì, chiedi la Marina, di tutto di più sta giurito. No, ma perché sono di bilubare bene di bilubare zitta? Perché tu mi cresci di baro, non veniva! E paghi si vai in mezzo all'acqua di biglio. No. Ma si abitona, là. Vabbè, dai, mi assento che mi vado a me la sciacquata. Riprendi Tore. Cate in mano questo graziano, atto. Mi guarda sempre a pezzi, buh. Mi surai, allora poi tu non lo gioco, buh. Vabbè, lasciamelo fare, va. Attenzione, signor Bacchisio! A me si è tratteso con qualcuno, grazie. Avrà già, ma si rivecchia! E c'è il ciulato di chi? Non lo gioco, no. Bacchisio Buru è entrato nell'era degli ottantenni. Andiamo. Ah, gente, fra poco tocca a pucciarlo con la carriola, Bacchisio. Sì, vabbè, piano, è sempre andando che tu dici. Ma mi ha detto che ci guardi la barca a vela, ma farai assai in campagna, Sì, vabbè, barca a vela, sempre andata. Buttate che andiamo abusato. Ci devi buccare un buffalore, ma buffare la vela che duro per il vento. Andiamo. Io gli consiglierei a Luca Flipper, chi va bene i piumoni. Sì, poveretto. Chi sa, adesso ti vedessi per Gio Maria. Attenzione Gio Maria, tu manca dove? A me mi sa si sono fermi luci mio, mi mie cocò, il gatto, la volpe. Non ci sono fermi luci mio, meglio così. Manco ci non mangiani. Arrivare vera, in diretta, un amico mio. Fermi luci Rusimino, tu, lui, cugnato, vera. La moglie, la suo fratello. Una gravigliata, un metro di gravigliera, un metro ma un metro, tutto semino, i due erano cucinelli, con i pizzi che gli rennero, tutto vedo succioso. E vabbè, meglio così, ma... Io ce l'ho fatto da poco qua, nel braciere. Nel barbecue sarà 4 mesi fa già l'ho fatto, ma io ne ho fatto 3 kg erano, ma era mio, sì. Io sono da un bel che non ne mangio, ma ho 4 o 5 anni che non ne mangio. No, io lo dico a coso, che la macelleria che c'è vicino al Barsano. E lo dico, me lo porti lo zimino all'altra settimana, mi dici quanti chili di voi, gli dico quanto ne voglio e me lo porta, e quando mi la rega, la dico mi la rega, andemene un ritiro, ed è buono avvenire, mi tennero denaro. Ma il fatto che sono mie moglie, i miei figlioli non li mangiano, pensa un poco, né miei figlioli, né ienaro, né nessuno li mangia, ma come ne butti? Quindi quando ci debbiamo biglio papà e me e mia moglie di sole bu. Lo pigli battetto, moglie, se lo cucina te lo mangi tu e tua moglie e si mangia la tua cosa. E perché io per il pesce non è che lo mangio, io mangio solo i crostacei, i calamari, i polpi, però il pesce non lo mangio io. Ma però a mia moglie quello figlio, a mia figliore se lo mangia. Ti copro la rasa, le orate, le spigole, le triglie, mi lo sarretto io a Romagna, brisso, o col sughetto, brisso e metto il sugo sopra. Così solo i zeri, ma gli altri pesci non li mangio. È raro che mi mangi un pezzo di orata, ma un pezzo e tocco mezz'ora, ma è si bella e pina. Se no non li mangio per quello io. E loro già lo mangiano e lo prendo. No, io ho sempre comprato il pesce a Vuglia, certo. Il calamare vi l'ho fatto mangiare quando era salì, 2 o 3 giorni fa, l'ho fatto mangiare, anzi lunedì l'ho fatto mangiare, certo. E devi mangiare sempre... Ieri li ha fatti i calamari fritti, non li ho comprati, i calamari già li mangio, i polpi, però i pesci, noi che li mangio io, dopo ci mangia cosa, arselli, gambero, questa roba così, però pesci non li mangio proprio, però lo compro lo stesso, se lo mangia niente io non li mangio. E ci mangia un pesce, ma dietro mi posso la pettina in cavallo, capito? Io già lo mangio il pesce, io a Vuglia, è tutto il pesce mangio, tutto quanto il pesce che c'è mangio. E a Vuglia, ne ho già regato io di pesce, allora, che ne trovo a picca, purtroppo non vento più, la muta nuova, ho comprata l'anno scorso. È trattata una volta giù, boh. Eppure io tanti 5 anni fa ti piccavo e lo mangiavo, giusto un pesce. E poi non ne ho più mangiato, però solo quel pesce là mangio. Pesce non ho più mangiato. Le carpe pure mi mangiavo, e cosa non ho più mangiato? Ma di tutto, prima già lo mangiavo, però con questo disturbo che c'ho, non te ne faccio venire a mangiarmi, Ecco, e poi mi dà fastidio lì a mangiare, a bucarmi la spina, ui. No, no, mi ha stufato, ui. No, no, io quando lo compro, io ci sono mia figlia e i miei nipoti e il mio genere. Ah, lo compro molte volte, a Buglia. E io già lo prendo sempre. E anche ieri l'ho comprato, infatti le orate le ho preso. 8 orate, se le ha pulite e se le ha messe nel fossetto dentro le bustine e se le ha conservate, non le ha cucinate, ha fatto solo i calamari. Però quando lo vuole lo prende dal fossetto e se lo fa in forno o arrosto, capito? Però io non ne mangio, io mi mangio una sagosa. Ma purtroppo è così. A me mi stufa, devi stare chi va a bucare la spina, ui, no, vivo a pento, io sono così pochi da stranghi. No, non ho più mi pazienza. Ah, io gli avraggio la pazienza, ancora a mangiarlo, e catta, sarebbe da fare la pazienza, uia. No, io no, mi stufo subito. Ma di qualsiasi cosa a me, non ti credimi. Prima per dire la pasta asciutta, le pennette. Guarda via Marco, avanno le borse, quindi. Che ne hai mangiato troppo prima, ecco cosa è. Dove sta Caimo, dove sta? Deve essere pagissimo. Per dire, le anguille, lo stesso. Mica ti mangiato un bel anguilla, poi le compravo lì al vivaio. Era vicino in falegnameria, le compravo spesso. E mi viene stufato, ero anni e anni. L'anno passato, era al mercato, le ho comprate. Sì, le ho mangiate, però noi che fa via in sagana, come se un tempo mi rimaniamo di base a fare un violino. Ah va, oh! Grazie. Cosa vuoi fare? Stanno stufato? Pazienza. Io quando oggi che d'altro, piano piano andiamo a Dananzi. Lo paro che non sempre da cucina, voglio dire che studiate in casa di una, oggi batti brodo, brodino di pollo, vabbè, siamo lo mangiato, però brodo mi ha già fatto, anche il posto mi ha chiesto. In genere lo faccio lunedì. Vedi. Vabbè. Andate così. Attenzione, signor Bacchisio. Vedi che Bacchisio si è perso, da. Oh, si è perso, si è avuto con Massi Veglia. Poi era l'ottima conquata. Va, Sarruburu. Anche tanto subito mi posso l'insulina. Poi Bacchisio, va, se gli va pure l'insulina. Chido, sei sciuccagno sotto la doccia, paravai a scivolo. Anzi, ti dico che chiudo adesso, là. Ce la sentiamo domani se coincide. Tore, ciao, ciao chi è l'ascolto. A domani, ciao tu. Sì, ok, ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime, da. Ehi, hey, ciao. Ciao, guffetta, chiude. Sono le 8:15 già, mi va l'insulina e tutto. Ui, non è entrato nessuno oggi, solo io e Torre. E buh, va bene, a domani se coincide, ciao. Vabbè, Gio Maria rimane entrato, ha fatto la chiacchierata, vuol dire oggi non aveva gara, io non c'ero, capito, se no sarei entrato. Vabbè, ciao da Paoletta, ciao. Ciao Torre, anche a te, dato che qua è tra un po' ora di cena. A domani, ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo domani. E Luca, ciao. Ciao Gian Maria, sarà con Flippero in campagna a Penilusimini, ciao. E Luca, ciao. Cosa regata Cubica? Se non vale Cubica di là, è pure della frutta. E di l'ultimo. Vabbè, ciao, salutami pure a Marina da parte di Paoletta, a domani, ciao. Sto ricambiato, certo. Не торопись, я сейчас карман посмотрю. Тюрьма. Не, ну то вы в рацию говорите, останавливаемся или нет. Так я говорил, останавливаемся. Вы слышали, да? Тогда хотя бы кнопку нажимайте. Раз.